ci sono quei momenti che non scordi, un passato di sequenze ormai finite, venire alla mia mente quei ricordi che colorano il mio tempo della vita. Sono bagliori quei momenti di una volta, sogni raccontati, ansie confidate, difficili momenti superati, tempi ormai andati che sanno un po' d'antico, restano i ricordi di un amico. Ascolto la sua voce poi insieme, come allora. Sentire ancora quei momenti, restare ancora qui con me, nei ricordi datomi dal tempo andato via. Dalla sorte, anzi sogni e storie della vita. L'amico ora sottratto dalla morte, momenti di vita già finita. Di vivere adesso quei ricordi di una volta, ancora i racconti, le ansie confidate, i difficili momenti superati, tutto ciò che è stato torna nel ricordo di vivere qualcosa che non scordo. Sentire la sua voce poi insieme, come allora. Ora è solo un sentimento, restare ancora insieme a me, di un amico datomi dal tempo andato via.